elettronica di Radio Samarcanda Digital Network in compagnia di Amptech. Ho aperto con il nuovo singolo che Italtech ha rilasciato sulle piattaforme, che si chiama The Eyes Is Thin, che prelude un probabile nuovo lavoro, penso, per Planet Moon Records. Andiamo avanti con due altre preview che anticipano il nuovo album di Seafill, un altro nome storico della scena elettronica britannica, naturalmente su Warp Records. You're listening to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain, this is Oxygen. E questi erano Sea Feel, un progetto storico della scena elettronica britannica. Il brano che abbiamo ascoltato per primo si intitolava Until Now, il secondo invece Ever No Way. I due brani probabilmente anticipano un nuovo lavoro più esteso per Warp Records. Rimaniamo su Warp Records, oramai fra pochi giorni uscirà il nuovo lavoro di Square Pusher, una delle figure più mitiche, iconiche dell'elettronica degli anni 90, ricordiamo anche un ottimo bassista elettrico. Kammer Concert sarà il titolo del lavoro, per il quale ha già fatto circolare due brani, e ce li ascoltiamo di fila. Square Pusher, ovvero Tom Jenkinson. Thank you. heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questi erano due brani che anticipano il nuovo album di Square Pusher per Warp Records, ovvero Camer Concert si intitolerà. Andiamo avanti su un altro autore classico, se vogliamo, della scena britannica degli anni 90, Edward Upton, il suo vero nome, ma in realtà si è fatto conoscere come DMX Crew. Nuovo lavoro che si chiama No Way to Control It, DMX Crew. Thank you. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Oxygen. Che siete all'ascolto di Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Samarcanda Digital Network. Questo era DMX Crew, una figura storica della scena elettronica britannica che torna con un lavoro che richiama proprio alcune sonorità degli anni 90. Andiamo avanti con invece un artista giovane, si tratta di Tatiana Triplin, che si fa chiamare Nondi con il trattino basso dopo la I, e che ha inciso questo album omonimo per Planet Mu Records che si chiama appunto Nondi. E vi ricordo che siete all'ascolto di Samarcanda Digital Network, questa è Oxygen. Abbiamo ascoltato un paio di estratti dal lavoro che Nondi ha pubblicato sull'etichetta di Mike Paradinas, cioè di Music, la Planet Mu Records. E proprio su Planet Mu Records restiamo con un altro progetto al femminile. Si tratta di Xylitol, l'album si intitola Blumen Fantasy, che si muove fra ambient, drum and bass. E Xylitol, il cui vero nome in realtà è Catherine Backhouse. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Questa era Xylitol qui a Oxygen, un'artista, Catherine Backhouse, attiva molto come DJ e che ha pubblicato già alcuni lavori su Planet Moon Records, un'etichetta sempre molto attenta alle nuove tendenze e ai nuovi artisti. Andiamo avanti con Mike Parker, che ha pubblicato un lavoro che si chiama Echo Disintegrator per Samurai Music. your brain, for your soul. This is Oxygen. Balance to be. E questo era Mike Parker qui a Oxygen, un lavoro che si chiama Echo Disintegrator, pubblicato da Samurai Music, ma andiamo avanti con un'etichetta ugandese che si chiama Niege Niege Tapes, che fa uscire un album di un collettivo che si chiama Kinact, un collettivo che ha sede appunto a Kinshasa, dove realizza street art, chiaramente con musica anche elettronica, fondato nel 2015 da Eddie Ekete. Questo lavoro si chiama Kinshasa in Action. Oh, You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era un estratto da Kinshasa in Action, pubblicato da Niege Niege Tapes, un'etichetta ugandese molto attiva sia nelle nuove tendenze della musica popolare africana ma anche in quella più tradizionale. Kinact, il nome del progetto, Kinshasa in Action, il titolo di questo lavoro. E ci spostiamo su qualcosa di completamente diverso, Rabbi My Dear, un progetto che pubblica in questi giorni un extended play intitolato Iterations su Analogical Force. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. E questo era Rabbi My Dear su Analogical Force, un EP che si chiama Iterations. Vi ricordo che i podcast di questa trasmissione sono ascoltabili sul sito www.musicamachina.com, mentre www.radiosamarcanda.it è il sito di riferimento di questa emittente. Andiamo avanti con una delle mie artiste preferite, si tratta di Polygonia, ma il suo vero nome è Lindsay Wong, di stanza però a Berlino. È una produttrice davvero molto attiva. Il suo ultimo Extended Play, tra l'altro sono usciti anche dei remix fatti da lei in questi giorni, ma il suo nuovo EP pubblicato da Time Dance si chiama Ceaseless Motion, Polygonia.

E vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network. Abbiamo ascoltato Ceaseless Motion di Polygonia, ovvero Lindsay Wong, e come sempre la sua proposta è molto raffinata e intelligente. Ma andiamo avanti con un progetto storico che fa parte dell'universo afrofuturista dei Trexia, direttamente da Detroit, la patria dell'electro e della techno. Si tratta di Der Zyklus, l'EP si chiama Truth Matrix. e questo era Der Zyklus, uno dei progetti nati dalle ceneri di Drexia, uno dei progetti più importanti della scena elettronica degli ultimi 40 anni, appunto, che vede le sue origini a Detroit. Andiamo avanti con un altro progetto storico, questa volta britannico, che abbiamo visto vedere luce negli anni 90 con la Reflex, l'etichetta di Aphex Twin. Si tratta di Psylob. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era Chris Jeffs, ovvero Psylob, un album che si chiama In Dystopia, che devo dire, ammetto che non mi ha fatto particolarmente impazzire, Ma andiamo avanti con un altro nome storico, questa volta italiano, a cui invio un saluto personale, dato che la mia stessa carriera è iniziata in un certo modo grazie proprio alla sua collaborazione. Si tratta di Marco Passarani, Analog Fingerprints Volume 0, il titolo del lavoro. We'll be right back. E questo era il grande Marco Passarani, ma spostiamoci verso ambientazioni più deep techno con Laima Adelaide, che ha appena rilasciato un nuovo lavoro con 5 tracce che si chiama Hyperbola. Laima Adelaide. Thank you. E vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, trasmissione di musica elettronica di Samarcanda Digital Network. Questo era Laima Adelaide da questo lavoro che si chiama Hyperbola. Chiudo lo spazio in voce della trasmissione per poi dedicarci all'ascolto di DJ set e live set per tutta la notte con il nuovo lavoro di Robert Hood, che si chiama The Grey Area. Robert Hood, anche lui sempre da Detroit direttamente. for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. the volume. The volume.